בלו טיים לייב. Amici di Blu Radio Veneto in ascolto, buona serata a tutti. Oggi è martedì 26 febbraio del 2013. Io sono Flavio Bilato, assieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, pronti per un'altra serata a base live, base musica acustica, perché abbiamo un graditissimo ritorno nei nostri studi. Ci sono venuti a trovare più di una volta, anzi questa è la terza, lo riveliamo. Diciamo, li definiamo anche il gruppo più longevo, perché sono da circa 23 anni insieme, nonostante la giovanissima età. E da prima uno dei ragazzi aveva suonato da solista, poi è arrivato subito l'altro, no? Quindi allora questa è una maniera così ufficiale per presentare i Sismica. Eccoli. Ciao qua, ragazzi, buonasera. 23 anni insieme, ovviamente tu dici giustamente. Visto che voi siete giovanissimi, però sì, sin da piccoli amavate esibirvi in duo, essendo fratelli, ovviamente. Sì, certo. soprattutto con i vostri genitori, che hanno stimato sin dal principio quelle che erano le vostre diciamo qualità canore di quel periodo, quindi sapevate se non altro piangere bene. E come? E adesso quindi eravate così tranquilli a quel tempo che vi hanno chiamato direttamente Sismica. Esatto, hai capito? Vedi, è proprio la nostra personalità, si può dire, no? Certo, adesso stavamo naturalmente scherzando. I Sismica sono con noi, sono grandissimi ospiti, sono grandi amici di Blu Radio Veneto. In questa serata ripercorreremo insieme quelle che sono state le tappe recenti di quelle che sono stati i loro dischi, quelli che vanno per la maggiore, per inserire poi anche un disco che sta andando molto bene, lo vediamo, l'abbiamo visto noi su YouTube, noi un po' rockettari, di matrice rockettare, io e Maurizio abbiamo visto un ottimo brano dance e non ci siamo alzati a ballare anche noi, perché è un invito a ballare. E poi, questo ci fa piacere, ottima cosa. Ecco, poi parleremo appunto di questo pezzo, lo ricordiamo dal principio, si intitola Movida ed è veramente un brano che fa ballare. Quindi salutiamo tutti gli ascoltatori, salutiamo anche tutti i fans e tutte le fans in ascolto di Blu Radio Veneto questa sera. Alterneremo dei pezzi da disco a dei pezzi live, diciamo che comunque la scaletta sarà quasi interamente caratterizzata da live, solo qualche pezzo da disco per prendere un po' di fiato, diciamo così. E quindi, da dove si può partire? Era il lontano 2007. Allora, sì, i Sismica, Maurizio, hanno iniziato a suonare proprio credendoci dal 2007, quindi sono 6 anni di intensa attività per, diciamo, promuovere quella che è la musica, quelle che sono le sensazioni che vogliono proporre i Sismica. Allora, siete nati quindi nel 2007. Al Piper di Roma, è importante. Quella è stata una delle nostre prime importantissime tappe, perché lì sai, insomma, è la casa della musica italiana e non solo, ecco. Allora, il progetto Sismica sì, è ufficialmente partito nel 2007, ma in realtà è nato molto prima, è nato nel 2003, molto, per noi è molto. sì. Scusami. Rispetto all'età, certo. Esatto. Rispetto all'età, appunto. Diciamo quello dall'esigenza e dalla voglia di esprimere il nostro pensiero e di farlo sentire a più persone possibili, ecco, questo è il nostro progetto, è questa la base del nostro progetto, quello che noi vogliamo trasmettere, questo, far sentire le nostre idee, far sentire la nostra voce il più possibile a più persone possibili. E lo stiamo facendo da un po' di anni ormai, sta andando molto bene, siamo sempre in tour, per fortuna non ci fermiamo mai, sia in tour live. Siete molto stranieri che noi italiani, i stranieri sono sempre in tour, gli italiani un po' meno, voi siete proprio stranieri come idea. Sì, a noi piace moltissimo, sì, piace molto suonare dal vivo, è ovviamente la base di tutto, perché poi il contatto diretto ce l'hai con il pubblico, è lì che veramente vedi la gente negli occhi, la guardi negli occhi, è lì che vedi le loro emozioni e che ti emozioni anche. Certo, quindi deve essere un'atmosfera che io e te, Maurizio, non abbiamo mai provato direttamente, mai la proveremo. Sicuramente, no, ma no, noi proviamo a essere qua dentro, loro ci danno feeling stasera, sicuramente. Sì, ecco che. Allora, cominciamo subito presentando quella che è la musica dei Sismica, prendendo proprio uno dei pezzi d'inizio della vostra carriera, e quindi stiamo parlando del, già del 2009 in questo caso. Sì, quando... diciamo discograficamente siamo partiti più o meno nel 2009, ecco. Vedremo questa sera, lo dico un pochino così per anticipazione, vedremo questa sera un attimino anche quello che è stato il nostro crescendo musicale dagli inizi fino ad oggi, così si sentirà anche insomma i vari passaggi e l'evoluzione che c'è stata e che continua ad esserci. Quindi l'evoluzione della specie sismica. Esattamente, ecco, proprio così. Allora, cominciamo col primo pezzo. Parlami di te. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Della serie Il bello e il brutto della diretta abbiamo ascoltato un Parlami di te che parlava poco in realtà, perché c'era però una base digitale. Abbiamo fatto sentire agli ascoltatori il focus di tutti gli strumenti. Esatto, e questo è importante, è molto importante, l'arrangiamento è la base di tutto. E ci teniamo subito a salutare il nostro arrangiatore Alex Zucchero. Esattamente, così anche lui è contento che il suo arrangiamento è stato reso noto. Sì, perché la base di tutti i pezzi è l'arrangiamento, l'idea come partita. Noi abbiamo fatto dire, cari ascoltatori, l'idea iniziale. Esattamente, la base. Era tutto previsto. Certo, previsto. Ovvio. Assolutamente. Anche perché era veramente cruda questa canzone. Quando è nata era veramente cruda. Ecco, adesso siamo riusciti abbiamo l'ufficiale. Sì, adesso siamo riusciti a tenere la temperatura ideale di quella che è la canzone, quindi... direi, prima che sia troppo tardi, di rimetterla dentro e sentire finalmente questo Parlami di te. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Thank you. invece non ci credo più alle favole. Credimi, in questo labirinto d'anime ho già trovato i segreti del cuore, la chiave del tuo amore. Parlami, se lo vuoi, parlami ancora di te. Parlami di te, era il 2009 e Sismica hanno firmato in quel periodo un contratto con la Sunshine Recording che gli ha permesso appunto la realizzazione di questo pezzo, si intitola Parlami di te, e poi inizia proprio quella che è la storia ufficiale dei Sismica e con questo Parlatemi di voi, dopo di questo Parlami di te. Beh, allora collegandoci appunto alla produzione e al lavoro svolto insieme ad Adriano Martino e Alex Zucchero, che sono rispettivamente il nostro produttore discografico e l'arrangiatore. Anche l'arrangiatore di questo pezzo. Assolutamente. Per noi è veramente una grande fortuna una grande collaborazione, ci ha insegnato tantissimo, abbiamo imparato molto da loro. Cosa si impara da un arrangiatore? Beh, soprattutto da due musicisti come loro si impara tantissimo, quasi tutto. non solo appunto per quanto riguarda gli arrangiamenti, ma anche per quanto riguarda la composizione, si può dire che sono stati comunque loro i nostri maestri, no? Abbiamo imparato tantissimo da loro, ci hanno dato delle basi molto, molto importanti. Ecco, per noi è stato un piacere, è un piacere lavorare insieme a loro e ne siamo grati. Chiaramente, quindi uno sviluppo continuo, partendo da Palle di Benedita e poi siete andati avanti, perché siete andati avanti voi stessi al di là dei maestri che eravate vicino. Certo, perché appunto come parlavamo prima, noi anche con i concerti non ci siamo mai fermati, per noi è veramente la nostra quotidianità. Quindi c'è stato anche un'evoluzione da parte dei concerti, anche numericamente proprio, no? Mm-hmm. Si sono veramente, ne abbiamo fatti sempre di più in tutta Italia, ma non solo, siamo stati anche all'estero, anche recentemente, qui in ottobre siamo stati, dove siamo stati? In Austria, Spagna, Tunisia, Francia. Esatto, però, un po' ovunque, insomma, girato, oltre che in Italia. Sì. Andrea sta parlando, Davide in questo momento gli funge da segretario. Gli ricorda la mia memoria questa sera mi tradisce. Quelle che sono state le date importanti per i Sismica, che quindi vi state muovendo molto allora in questo periodo, e anche continuerete a farlo, perché è proprio nel vostro stile quello di proporre soprattutto la musica dal vivo. Certo, noi continuiamo con i concerti, siamo anche attualmente comunque in promozione sia con questo nostro nuovo singolo Movida, che sentiremo poi più avanti. E quindi ecco, sempre in giro, stiamo lavorando ad un nuovo progetto, un nuovo disco, poi ne parleremo anche di questo magari più avanti. Benissimo. E quindi non ci fermiamo mai, per fortuna siamo sempre attivissimi, non ci ferma nessuno. Quando suonate dal vivo, già avete in testa di elaborare altre proposte, altri momenti musicali? Suonate dal vivo, però già avete la mente ancorata verso altri iniziativi? Futuro. Al futuro, sempre. Sì. Sì, assolutamente. Non vi fermate mai? No, anche lavoriamo veramente, cerchiamo di proporre sempre cose nuove al pubblico, cose anche che non sono magari mai state fatte, insomma cerchiamo il più possibile. Adesso stiamo ad esempio portando in giro questo spettacolo che si intitola Disco Hits New Generation, ovvero è un DJ set suonato dal vivo. Il primo DJ set suonato dal vivo, quello che fanno solitamente i DJ nelle discoteche, sì. Noi lo facciamo dal vivo con una band. Cosa molto coraggiosa, assolutamente coraggiosa, e molto difficile, perché qua si vede veramente se uno sa suonare. Ci vuole sicuramente molto impegno, molte prove, i ragazzi che ci accompagnano, che salutiamo. Sì. Salutiamo Manuel Fabris, Stefano Lazzaro, Jay Roscia, Gesù Mattelliani e Michele Osto. Anche perché in quei DJ set, no? Sì. Adesso mi stavo ingarbugliando con la parola, è molto difficile. Ci vuole anche molta, molta tastiera e ci vuole anche molta batteria in questo caso, perché voglio dire, sarà stremato il batterista alla fine. Dopo è fondamentale, la parte appunto elettronica di tastiere e il batterista, diciamo sono la base di tutto. Diciamo che quello che cerchiamo di fare noi è quello di riproporre un pochino la musica dance, che poi sentiremo, perché stiamo partendo veramente dall'inizio di quello che facevamo, un pop molto più leggero alla disco dance. Che tra poco faremo un live, allora... Certo, è fondamentale questo. Ci tenevo a dire anche che in questo spettacolo c'è una collaborazione nata a luglio con un corpo di ballo, sono i Jam Session Crew, capitanati dalla coreografa Giorgia Curato, e quindi questo spettacolo non è solamente da ballare e da ascoltare, ma è anche da vedere, è veramente uno spettacolo piacevole anche da guardare. Ecco qua, in questo caso Maurizio non vediamo il balletto. Purtroppo no. Però magari la promessa, quando avremo le webcam che funzionano, certo, anche col corpo di ballo vi vogliamo qua, naturalmente. Allora, vi lascio il tempo di andare verso la vostra postazione, perché i Sismica ci faranno ascoltare la prima canzone in versione acustica, quindi in versione live, si intitola Parole d'amore. Nel frattempo io ricordo ai nostri ascoltatori che la trasmissione che state ascoltando la stiamo anche registrando per poi inserirla all'interno dei nostri archivi sonori, quindi poi basterà andare nel nostro sito internet bluradioveneto.it e nella pagina riservata ai Sismica entrare e avere la possibilità di riascoltare la trasmissione, mentre in questa serata tramite sempre il link di questa pagina si può accedere anche allo streaming audio. Quindi salutiamo gli ascoltatori che ci stanno ascoltando nella versione classica, quindi con la potenza dell'FM, e ancora chi invece ci sta ascoltando via streaming audio. Per voi tutti è aperta anche la nostra pagina su Facebook, l'indirizzo è quello Blu Radio Veneto Rock Wave. Allora spazio ai Sismica, spazio a questa Parole d'amore. Possono far male o fare paura, possono riempire il tuo cuore di gioia, farti crescere e imparare a volare con la fantasia. E mi sussurravi in un orecchio, poi la tua voce svaniva nel vento, così dicevi parole d'amore, intense emozioni da rivivere così. Momento per momento una storia, io e te. Parole d'amore, voce di una canzone da cantare e ricordare quando sono solo insicuro e manchi tu. Distanze nella verità possono causare infedeltà, possono far male alla relazione o far ritornare. E quando sdraiati su un prato fiorito, un petalo si sposerà tra i Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ed era questo un pezzo inserito anche all'interno del CD dei Sismica, Credi nel tuo Dio, si intitola Parole d'amore, ce le siamo ascoltati nella versione live. Questa Parole d'amore è scritta appunto da Davide e Andrea assieme a Alessandro Zuccaro, che abbiamo anche ricordato prima. E allora, queste parole d'amore per una storia, un'avventura, allora come è nata questa canzone, Andrea? Ma che dire, le nostre canzoni nascono sempre e partono da delle esperienze che noi abbiamo vissuto in prima persona sulla nostra pelle. Le scriviamo sempre insieme, quindi confrontiamo le nostre idee e le nostre esperienze di vita, e da lì parte l'idea musicale e anche del testo, e nasce tutto. Ecco, si sviluppa gradualmente. Sono anche comunque canzoni molto istintive. Ecco, quello che sentiamo al momento lo buttiamo giù di getto, e poi in seguito viene lavorato. Qua musicalmente era una ballad, assolutamente, sì, una ballad. Sì. Tu giravi, coloravi con l'acustica, e il basso Fender che rientrava, che spaccava. Come spaccavi bene quel basso Fender? Mi piace, vedo che ti piace parecchio quando usi il basso Fender. Mi piacciono le note gravi proprio. Esattamente. Mentre tuo fratello dava la colorazione con l'acustica, una bella strimpellata acustica, dava l'andamento, dava il sottofondo, e tu entravi col basso, chiaramente. E il basso è un bello strumento, penso se un Fender è un doppiamente bello strumento, secondo me. Sei innamorato del Fender. Il Fender sì, io sono un rockettaro, cari ragazzi. Hai ragione. Il rockettaro, il Fender, è l'icona proprio. Sì, vorrebbe averne uno a casa, se ne trovate uno di usato da mettere, da incorniciare per Maurizio. Vabbè, quindi abbiamo ascoltato queste parole d'amore, che era appunto il lontanissimo 2009 che vi vede protagonisti, e l'avete anche suonato qua da noi. Sì, la prima volta. Esattamente. È una versione un po' leggermente diversa. Forse meno sì, elettronica, no? Ma perché sì, perché poi i quella brani... seconda voce impostata da Davide, molto curiosa. Hai sentito? Sì. Sì. Sonorità diverse, nuove. Mm. Sì, perché poi i brani, appunto, anche se nascono alcuni anni fa, poi nel tempo l'evoluzione appunto nostra musicale, insomma la nostra crescita, anche le nostre influenze musicali, portano a modificare il brano scritto un tempo in una maniera, diciamo che viene riletto in un'altra chiave. È giusto, secondo me, è giusto. Certo. Questo brano, oltretutto, nel disco è suonato in shuffle, è shuffolato. È ancora diverso. Quindi poi, è ancora diverso da questa versione che facciamo in live in due. Esatto, praticamente. Quindi cambia. Insomma, ancora. Ci sono più chiavi. Una canzone può essere letta in vari modi, ed è bello anche far scoprire al pubblico i vari modi appunto di interpretazione, di esecuzione. Vi mettete sempre in contrapposizione, così ci piace trovare una nuova versione del pezzo. Ci piace sperimentare, ci piace giocare molto su questo, ci piace provare cose nuove, e insomma vediamo anche che il pubblico recepisce bene questa cosa, gli piace, si divertono. Bene. E ci divertiamo anche noi, cioè, sempre. Anche noi stasera, sicuramente. Perfetto, assolutamente sì, Maurizio. E allora, visto che ci stiamo divertendo così alla grande, diciamo anche ad Andrea e Davide che possono ritornare nella loro postazione, quindi i soliti movimenti, via la cuffia, metti le orecchiette, quelle che si chiamano in pugliese orecchiette, invece in termine tecnico sono le earphones, e allora possiamo ascoltare un altro pezzo, che poi torneremo a commentare. Ci sarà una lunga presentazione di questo pezzo che adesso i Sismica eseguiranno in versione acustica live. Quindi da Blu Time Live, buon ascolto. Questo è Il treno nella notte di Umberto Bindi, se lo ricordate, con i Sismica protagonisti in questa serata. Thank you. luce che cercano pace. Sono impressioni sonore, terre lontane di mare. C'è una stazione, c'è direzione, se il viaggio comincia da me. Non serve biglietto perché il viaggio c'è già un clandestino. Allora, Maurizio, hai sentito? Sì, ho sentito. Hai sentito che bel pezzo? Molto bello, sì. Nell'interpretazione dei Sismica, Il treno nella notte, Umberto Bindi, ci rimporta un po' indietro nel tempo, che veramente questa canzone ci dà una grande emozione, sentirla anche da una grande interpretazione quale sia quella dei Sismica. Allora, questo Treno nella notte... Sì, parliamo so che di questo brano. Ci sono tante cose da dire di questo pezzo. A noi pezzo. Veramente molto molto molto caro, proprio nel nostro cuore, tutta la musica di Umberto Bindi, in particolar modo questo brano che ci è stato affidato nel 2009 dalla Fondazione Bindi. Questo è un brano inedito del maestro Umberto Bindi, il primo brano ad essere pubblicato tra l'altro dopo la sua scomparsa. Noi l'abbiamo interpretato, riarrangiato, fatto nostro. Sempre insieme ad Alex Zuccaro è stato registrato e è inserito appunto nel nostro album uscito nel 2011, Credi nel tuo Dio. Una canzone che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Ci piace questa cosa anche di poter far conoscere Umberto Bindi ad un pubblico che magari non è proprio il suo, cioè ai nostri coetanei, no? Questa è una cosa molto bella per noi. Ma è una cosa giusta e coraggiosa fare conoscere un pubblico giovane un musicista di grande classe, di grande statura, come Umberto Bindi. E poi vediamo che piace molto ai giovani, eh? Sì, sono d'accordo con te. Abbiamo tra l'altro anche registrato un videoclip di questo brano che uscirà in marzo, quindi tra pochi giorni uscirà. L'abbiamo registrato esattamente un anno fa. È un videoclip che abbiamo registrato a Londra. Interamente con il regista Massimo Tognato, che salutiamo. Bene. Che tra l'altro poi Londra è una città legata in un certo senso alla vita di Umberto Bindi, alla vita artistica di Umberto Bindi, per degli aneddoti particolari che poi magari un giorno racconteremo. Anche un po' inediti. Puoi possiamo una. Dirne uno? Sì, magari uno sì. Dai, uno sì, dai, uno assolutamente. Sì. Allora, uno di questi aneddoti particolari è che è stato trovato Il mio mondo di Umberto Bindi. Il pezzo più famoso. Esatto. Mm. Una registrazione di 1 minuto e 30 del mio mondo che è custodita ad Abbey Road. Questa canzone, cos'è la cosa particolare? Che è stata registrata e cantata dai Beatles. Ah. Questo non lo sapevo. Quindi Umberto Bindi è interpretato dai Beatles. È in cassaforte. È in cassaforte, non l'ha sentita credo nessuno, a parte appunto gli addetti ai lavori di Abbey Road. Nella cassaforte dell'AMI, di Abbey Road praticamente, è dentro la Abbey Road. Sì, esattamente, è proprio lì. Ecco, questo è uno degli aneddoti che legano Londra ad Umberto Bindi. Bello questo, che i Beatles si siano avvicinati ad Umberto Bindi. Da qui capisci anche la grandezza dell'artista, certo, perché certo. Insomma il pezzo era veramente in tutte le classifiche di tutti i paesi, in Spagna, in Inghilterra, e quindi loro si sono detti, ma come? Cosa succede? Perché si sorpassa questa canzone? Cioè. Loro erano secondi quando Il mio mondo appunto era primo in classifica. E quindi hanno voluto provarla. Proviamo a farla. Così, un po' scherzando. Vedi Maurizio che ci sono cose. Sono cose incredibili. Nel senso, i Beatles avevano grande qualità musicale, Lennon e McCartney. Si sono avvicinati a Umberto Bindi, vuol dire che avevano capito la grandezza di questo musicista. Ma molti altri artisti, anche stranieri, anche Robert Plant. Ha registrato. Noi che siamo rockettari, Flavio. Ha reinciso La musica è finita, no? Certo. Our Song in inglese. Bellissima interpretazione, tra l'altro, lui grandissimo artista. E quindi questo secondo me è anche un po' un onore per la musica italiana. Da cui capiamo che veramente Umberto Bindi è stato il padre della musica italiana. Che sia il padre dei cantautori, a 100% lo è. E lui è stato coniato la definizione cantautore da lui. Quindi bisognerebbe promuovere un'operazione che riprenda tutti questi pezzi di Umberto Bindi suonati da eccellenze della musica internazionale. Quali Beatles, sì, magari quando non sanno più che affari fare con la musica. Sarebbe bellissimo fuori. E lo meriterebbe. Parlando di Umberto Bindi, ricordiamo che il 18 di marzo saremo ospiti a una serata a Roma, dove praticamente verranno presentati gli inediti di Umberto, tra i quali il Treno della Notte che avete appena sentito, ci sarà il nostro produttore, ci sarà Alex, ci sarà Ernesto Bassignano, autore di molti testi di Umberto Bindi, soprattutto dell'ultimo periodo della carriera di Umberto Bindi. Certo. E che versione farete quella volta? Il Treno nella Notte, guarda. In che versione? Stasera l'abbiamo sentita nella vostra. Siamo ancora indecisi. Non sappiamo se lo decidiamo all'ultimo, tanto. Non sappiamo se farla un po' più acustica, un po' più elettrica, vedremo. A me è piaciuto, non so, Flavio, è d'accordo con me? È piaciuto molto il gioco delle voci che rimbalzavano in questo pezzo. Era molto interessante, molto positivo. Sì, perché poi magari anche appunto nelle versioni più acustiche le voci vengono più fuori, no? Cogli dei particolari e delle sensazioni che magari in elettrico non raccogli. Chiaro. Ma può essere fatto anche in elettrico. Certo. Sì, volevo capire, il vostro è un pubblico assolutamente giovane, chi vi viene a vedere, chi viene a saltare con voi è giovane. Come prende questa canzone? Molto bene. Soprattutto se poi gli dite che è una canzone che ha anni e anni. No, piace moltissimo ai giovani e questa cosa fa anche pensare molto all'eternità dell'artista, no? Cioè, come un artista è veramente eterno e soprattutto, come ne parlavamo prima, può essere rivisitato in moltissime chiavi perché è veramente universale. Universalità, appunto, dell'artista. Universalità dell'artista. Esatto. Può essere visto in più chiavi e è veramente sempre attualissimo. Questa è una cosa grande, direi. Direi proprio di sì. Bene, vedo su Facebook che ci sono alcune foto, qualcuno di voi le ha già pubblicate. Sì, sono un po' di foto, sì. Penso Zebra le abbia pubblicate, lui. Quindi facciamo riferimento a Davide e con le, alcune prove strumenti, diciamo così. Ne approfittiamo anche per salutare Alberto e Eleonor, mi sembra di capire, poi ancora Roberto, che dicono forza raga, buona trasmissione e buona musica. Tutti in onda, grandi ragazzi, un abbraccio. Benissimo, allora ricordiamo che andiamo avanti fino alle 22.30 circa, dopodiché ci sarà lo spazio Rock Wave, questa sera con Gilles Facchinetti, con l'intervista telefonica a Daniele Tenca, che ha fatto ultimamente un paio di dischetti, niente male. Torniamo a Bomba con i Sismica. Direi che potremmo. Beh, bello a Bomba con i Sismica. È bello, sta, no? Da molto potente. Sta molto, sì. Stavo riflettendo. Ma anche da loro, sì. Da loro approcciarsi stasera. Sì. Acustico, ma fino a un certo punto, mi pare, con l'elettrica, col basso elettrico. Acustici, che... ma incazzati. Esatto, in senso positivo. Ecco, sì. Quindi stai attento, Maurizio, tu che sì, sei nella gabbia dei leoni. Ecco. Benissimo, allora ci ascoltiamo un pezzo da CD. In questo caso diamo spazio a Testa Alta, che poi torneremo a commentare insieme. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoti, sospeso nei tuoi giorni grigi e vuoti, a vivere una vita che non vuoi, non è quello che sei. Eccoti, a correre ogni giorno contro il tempo, che lentamente ti consumerà l'anima. Fermati un po', metti in pausa e pensa. Prendi il tuo tempo, lasciati andare, vivi la vita che vuoi. Prendi il coraggio, fatti sentire, grida più forte che puoi. Resta ciò che sei. Gladiatore sono solitario, combatti a testa alta per qualcosa che ancora non sai, cammina e troverai un tratto di strada, questa è la tua vita, breve lungo tuo viaggio. Fermati un po', metti in pausa e pensa. Strada, questa è la tua vita, una sola fermata. Siamo qui di passaggio, breve lungo tuo viaggio, resta solo il ricordo. Prendi il tuo tempo, lasciati andare, la tua vita, la vita che vuoi. Prendi il coraggio, di passaggio, sentendo lungo tuo viaggio. Resta ciò che sei. Resta ciò che sei. Resta ciò che sei. Resta ciò che sei. Blu Radio Veneto. Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. il finale bellissimo, resta ciò che sei. Ecco, si dice così. Abbiamo ascoltato A testa alta, sempre avanti, quindi resta ciò che sei, frase semplice ma incisiva, credo, no? Certo, perché molto, sì, molto spesso magari si tende ad andare fuori rotta nella vita e a cambiare molto facilmente, non in meglio ma in peggio, perché cambiare in meglio va sempre bene, no? Sì. Sembra una cosa positiva, invece cambiare in peggio mica tanto, eh no, allora è meglio restare ciò che sei veramente, e poi o finale, cambiare in meglio. E poi il finale era rocchettaro, certo, come si conviene, chitarre, con bella solo aggressive finale. Aggressive è bello, cioè voi sì siete in evoluzione, ma il rock c'è sempre nelle vostre già, cose già, no? Già si sente la differenza comunque in questo disco, sì, rispetto a Parlami di te o gli altri, brani. È chiaro, però comunque il nostro essere musicisti si sente, la base del rock c'è sempre, poi certo, si può cambiare, allargare, si può diminuire, però assolutamente c'è. Il giro è sempre quello, cioè, è lì. È lì. Certo. Allora, io so che siete stati dalle parti di Sanremo nei giorni scorsi, non so come mai siete stati da quelle parti. Eravamo proprio durante il festival, siamo proprio stati lì quasi tutta la settimana. Volevo non ricordare che c'era il festival. Non volevo bene, l'ho detto io. Certo. In promozione con il nostro singolo, appunto. Abbiamo fatto un bel tour sia in varie radio che TV, un po' in tutta Italia. Abbiamo fatto anche dei flash mob, delle esibizioni insieme cosa al nostro corpo di ballo. Puoi spiegare agli ascoltatori cosa sono questi flash mob? Questi flash mob praticamente sono degli eventi organizzati in delle piazze dove si riunisce tantissime persone e si fanno fondamentalmente delle coreografie o delle coreografie su un pezzo. Si fa un live improvvisato. Esatto. È proprio questo, ecco, è una cosa molto divertente, è stata la nostra prima esperienza di flash mob. Certo, siete andati... eravamo sempre con Jam Session Crew, a Sanremo. Ah, quindi quindi un bel gruppo, avete affittato un albergo solo per voi. No, abbiamo fatto una bella settimana, insomma. Ma cosa si respira a Sanremo in quei momenti? Il vostro cioè maledetto il vostro papà mi ha dato un'indicazione. Che dire, diciamo che fondamentalmente è una grande fiera, no? Esatto. Cioè, praticamente si riuniscono. Ma caotica, lì, caotica. Molto caotica. Si riuniscono lì tutte le radio e le televisioni, fondamentalmente d'Italia. È un grande ritrovo. C'è quest'aria di festa che a Sanremo non si respira in altri periodi dell'anno. Insomma, diciamo che la settimana del festival è quella dove c'è più fermento, sia a livello anche di turismo, che appunto musicale. Oltretutto abbiamo anche incontrato molte persone con la quale abbiamo collaborato. Ah, vedi. Per esempio Franco Fasano, abbiamo incontrato Jalisse, abbiamo incontrato... Sì, diciamo la verità, conosciamo più gente andando in giro per Sanremo quest'estate che se andiamo fuori casa. Sì. Quindi è una cosa positiva anche sotto certi aspetti. Tra le cose, i geologi dicono che Sanremo è a rischio sfondamento, soprattutto in quella serata, quindi pian pianino si abbasserà rispetto all'altezza del suo mare. Allora, a Sanremo, se posso chiedervi, qual è la canzone che vi è piaciuta di più? Avrete dei gusti diversi? No, io non parlo. Che stai ridendo? No, così, io secondo me ho capito. Lo sai già. La canzone... No, io voglio sapere da voi. Allora, ti diciamo la verità. Una canzone allora, con più note però, non una mononota. Allora mi ha già anticipato. È un po' fuori del concorso, il contesto, sì. No, allora ti diciamo la verità. Non abbiamo avuto modo di ascoltare veramente bene, così bene, i brani, esatto, per poter dare un'opinione concreta, perché fondamentalmente bisogna ascoltarle le canzoni. Certo. Invece non abbiamo sentito più di un pezzettino di strofa del tonnello, perché in quella settimana lì c'è da capire anche che chi sta a Sanremo molto spesso è chi non riesce a seguire il festival di Sanremo. La sera eravamo ospiti in locali, abbiamo discoteche, suonato locali. Mi ha suonato il Morgana, Victory Morgana, che è il locale più indie di Sanremo. Insomma, perciò non avevamo tempo di ma siete andati a lavorare, cioè. Sì, ma va, mica dato non è che però lo ascolteremo presto, insomma. Comunque il vincitore sicuramente se lo quindi sarà meritato. Posso osare che c'era una specie di controfestival, insomma, in giro per chiaro, le strade del festival di Sanremo. Diciamo di sì, si prende questa occasione, abbiamo la fortuna, appunto, ci contattano, ci chiamano ogni anno. Questo è il terzo anno che torniamo lì. Facciamo un po' di casino. Ma è musicale, sempre musicale. E quindi è sempre un bel evento, è una festa anche per noi. E poi, oltre ad essere una festa per voi, anche è una cosa interessante per voi. Imparate, vedete, sentite, vi fate conoscere, perché il festival ha un potenziale enorme, c'è poco da fare. Certo. Sono pochi giorni là, sono fondamentali per tutto l'anno. Alla certo. fine non ho capito quale vi è piaciuto. Però appunto diciamo, il vincitore se lo meriterà sicuramente, oddio, non voglio pensare il contrario, assolutamente. Musicalmente era un bel pezzo secondo me, quello che ha vinto. Sì, era Marco Mengoni ha vinto. Esatto, ha vinto Marco Mengoni. Sì. Bravo, bravo. Sì, molto bravo. È uno che fa live spesso certo, e volentieri. Certo. Molto bravo. Molto bravo, sì. Aspettando i Sismica a Sanremo, mi raccomando. Aspettiamo 2014, chissà, vi magari, voglio lì. Magari un giorno la Disco Music potrà approdare anche a Sanremo, sì. Non si sa mai. Vi prepareremo per l'occasione le magliette con scritto Blu Radio Vento. No, verremo assolutamente tutti qua a Sanremo, verremo a sostenerli, verremo tutti a Sanremo a sostenerli. Ecco. Può darsi che un pezzo arrivi che non si sa mai, che possa certo. sfondare, che problemi ci sono? Assolutamente sì, vogliamo che sia così. Allora, adesso ancora... Postazione strumenti, perché abbiamo un altro bel pezzo in arrivo, un pezzo che già ci avevano eseguito il 18 ottobre del 2011, mi ricordo ancora la data in cui sono venuti l'ultima volta e aveva fatto un certo effetto anche ascoltare questa bella canzone di cui poi torneremo a commentare, una canzone che ha visto la collaborazione anche di Nini Giacomelli, poi più tardi anche tramite Andrea e Davide di Sismica ricorderemo anche la figura della signora Giacomelli. E allora adesso alziamo la strumentazione e quindi diamo voce anche a questa profe, loro sono i Sismica qui a Blu Radio Veneto. Profe, ti scrivo che stasera sto male, ho un nodo alla gola e continuo a pensare. E pensare lo so non fa bene alla pelle, nemmeno al mio spirito libero e ribelle. E sogno pensieri leggeri e parole di vento, uomini sinceri e un tempo lento. E sogno aquiloni. Scende sui vetri nei cuori, porta a galla ricordi, emozioni, parole. Ricordare lo so è una danza gitana, malinconia del tempo che si allontana. E sogno, e sogno, sogno una vita da vivere a pene spiegate, un mondo bambino in estate, sogno pensieri leggeri e parole di vento. E un tempo lento, sogno una vita da vivere a pene spiegate, un mondo bambino in estate. Blue Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. No, voglio dire, la carica del zebra quando sono al basso. Eh sì, è fantastica. Abbiamo proprio immortalato con sì, il nostro sì. grande fotografo Egilio, che salutiamo. Buonasera, Gil. E abbiamo proprio dato proprio l'input, il momento giusto in cui ti sei caricato dal basso assieme a tuo fratello e via, siete partiti in quarta. Questo è un pezzo, una ballata, ma poi si è sviluppato un pezzo rock assolutamente il finale. Cosa sì, questa tra l'altro collaborazione importantissima per noi, veramente... che vogliamo ricordare, questo è un brano scritto da Nini Giacomelli che è appunto inserito nel nostro album precedente Credi nel tuo Dio, certo. Che appunto ci sono tutte le nostre canzoni e il brano inedito di Umberto Bindi e anche delle collaborazioni appunto con Nini Giacomelli, che è una bravissima autrice della musica italiana. Lei ha scritto, per farti un'idea, testi meravigliosi come Grazie Perché, cantata da Gianni Morandi, o L'amico è di Dario Baldambembo. Ha scritto poi anche per Aznavour, veramente per tantissima gente, anche per Céline Dion. Però. E anche per Ornella Vanoni. Anche per Ornella sì, Vanoni, benissimo. Sì. Anche per molti altri artisti, sì, molti insomma, altri. Quindi vale la pena proprio ricordare questa figura di Nini Giacomelli e questa canzone, questa Profe, che è in collaborazione con Massimiliano Gaudio. Esattamente, tra l'altro questa canzone è anche contenuta in una compilation che è allegata ad un libro scritto da Nini Giacomelli, dove in questo libro ci sono appunto tutte le sue poesie e in questo CD ci sono molti dei suoi brani scritti da lei e interpretati da altri artisti. Ci siamo anche noi, appunto, c'è Ornella Vanoni, e questo libro e la compilation potete trovarlo anche nei negozi, nelle librerie. Nelle librerie. Certo, si intitola Di Tempo e Terre, ecco, ricordiamo questo libro con esatto. CD abbinata. Sei informatissimo. Ah certo. Ma sei tu, sono meglio di tutti e due. Tutti e due. Benissimo, poi ricordiamo che comunque questo pezzo è anche inserito all'interno del vostro disco, Credi nel tuo Dio, ecco, e assieme ad altri bellissimi pezzi, è ancora disponibile in store. Assolutamente sì, è anche in digitale, si può trovare su iTunes. Vi ricordiamo i siti? Ecco, visto sì, che sì, ecco, parlo digitale di web. Ecco, allora ci potete trovare su www.sismica.net, che là ci sono tutti i collegamenti per acquistare tutte le varie canzoni, ci sono tutti gli eventi, c'è tutto, ci sono le news. Poi ci trovate su Facebook, Sismica Andrea e Davide, ci trovate su Twitter. Insomma, siamo dappertutto. E noi siamo amici anche di Sismica, perché sì. Sì, abbiamo chiesto l'amicizia, no? Ci mancherebbe. C'è quel gioco a mi piace, mi piace oppure non mi piace. Quindi salutiamo tutti gli amici di Sismica che sono all'ascolto e salutiamo anche tutti gli amici di Blu Radio Veneto che ci regalano pazientemente le loro orecchie perché vogliono ascoltare sempre musica nuova. 22 e 3 minuti primi ancora con Blu Radio Veneto fino alle 22:30 assieme ai Sismica per presentare i pezzi vecchi e nuovi. A proposito di pezzi nuovi, c'è un qualcosa, un qualche anticipazione, perché so che sta bollendo in pentola, oltre che la vostra partecipazione a quella compilation di 9 pezzi, mi sembra di capire, col tributo a Bindi, anche qualcos'altro di vostro, no? Certo, stiamo scrivendo un nuovo album completamente di un genere diverso dal precedente. Che direzione è stata? Sarà questo nuovo album? Sarà fondamentalmente disco dance new generation, ovvero quello che stanno facendo gli americani da un po' e che sta andando molto bene anche in Italia. Noi lo stiamo riproponendo in italiano soprattutto. Ci saranno anche delle canzoni in spagnolo e qualcosa in inglese, ma principalmente in italiano. Ecco, quindi cerchiamo di portare la melodia italiana e la tradizione italiana nel nuovo genere e nella musica internazionale, ecco. Sarà un album molto, molto vario, perché si tratteranno dal pop dance, ci sarà anche qualcosa di pop, di R&B, ci sarà un po' di house commerciale, un po' di tutto. Ecco, è una cosa abbastanza nuova questa, collegata anche al nostro nuovo spettacolo Disco Hit New Generation, che ricordiamo ancora stiamo portando a giro adesso un po' in tutta Italia. Il primo DJ set suonato dal vivo insieme a Jam Session Crew. Ecco, e quindi inseriremo anche queste nuove canzoni, questo nuovo album, e magari ti facciamo sentire anche un'anteprima? Ma perché certo, no? Certo. Dai, come dite? No? Volentieri. Allora, sì, allora intanto diteci come si intitola. Mi sembrava di aver capito prima nella presentazione Amanti Distanti. Esatto. È giusto il titolo? È proprio quella. È proprio quella. Allora ce l'ascoltiamo. Questa è l'anticipazione dal nuovo disco che sarà tra poco presentato ufficialmente anche dai Sismica, si intitola Amanti Distanti, e quindi da Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live noi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare sempre un graditissimo ritorno, quello dei Sismica per noi. Quindi alla chitarra Andrea, al basso c'è Davide, insieme sono i Sismica, questa è Amanti Distanti. Dei miei pensieri ti nutrirai. Siamo amanti distanti oramai. Trovo un bivio, circostanza di un destino cinico. In ogni relazione labile ti cercherò, ti cercherò, ti cerco, mi perdo in ogni tuo ricordo. Ti cerco, mi perdo in ogni tuo ricordo. Siamo amanti distanti oramai. Ti ricorderai di me, mi ricorderò di te. Cercherai, cercherai il mio sorriso ancora. Troverai un'altra pelle, cercherai, cercherai il mio sorriso ancora. Troverai, troverai un'altra pelle. Ricordo un tempo, noi soli contro il mondo. E guarda adesso, siamo qui, spalle al muro, pronti a fare fuoco. Noi come ricercati in fuga, amanti nella notte, noi gli unici sovrani. Questo regno spento, innamorato di un ricordo non mi pento, di aver vissuto fino in fondo, fino all'ultimo secondo questa storia. Circostanze di una vita spesso sottovalutata, sto sul beat, poi mi perdo nelle pagine che adesso sto scrivendo. Tra le mie parole ti verrò a cercare ancora, ancora, ancora. Se i miei pensieri ti nutrirai, siamo amanti distanti ora. Pensieri ti nutrirai, siamo amanti distanti oramai. Ti ricorderai di me, mi ricorderò di te. Ti cerco, mi perdo in ogni tuo ricordo. Ti cerco, mi perdo in ogni tuo ricordo. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Amanti distanti, questo è un pezzo dei Sismica, ma vedevo dei movimenti strani, sì, Maurizio, sì, per perché cui gli ho fatto, sì, gli ho fatti stare fermi là, perché voglio, sì, risentire. L'inizio era veramente straordinario, me lo rifate l'inizio? Sì, sì, adesso lo rifacciamo, un secondo lo rifacciamo. Era proprio bello, proprio interessante, estremamente. Cosa? Voglio proprio le frasi iniziali, era perfetto, a me è piaciuto un sacco. Allora, vai di bis. Dei miei pensieri ti nutrirai. siamo amanti distanti oramai. Perfetto, io sono perfettamente contento di questo inizio. Volevi cantare anche tu con loro? Sì, no, no, meglio di no, meglio, assolutamente meglio di no. Ti vedevo molto partecipe in questo ultimo pezzo. Secondo te, Flavio, una svolta dance? A me non sembra proprio una svolta dance. Cosa dite? Ma diciamo allora, che quando, quando ci tieni fuori il, diciamo, la batteria e le tastiere, la rendi in questa dimensione così acustica, Ancora la parvenza di musica pop è sempre inoltrato verso il rock. Allora, poi diciamo che il nostro modo di comporre non è cambiato, no, nel senso chitarra e voce. Fondamentalmente la differenza la fa l'arrangiamento, no? Certo, sì. È chiaro. Però comunque la nostra anima resta quella. Abbiamo cambiato delle cose, siamo entrati comunque in un mondo di composizione diverso. C'è anche in un modo proprio di pensare la canzone in maniera diversa, con delle strutture diverse, però la nostra anima resta fondamentalmente quella. Io posso dire che questo pezzo non l'avevo mai sentito, in questa versione mi è piaciuto parecchio, molto mi è piaciuto, veramente. Bene. Dopo non so come sia la versione ufficiale quando verrà fuori il disco, però vuol dire che già, già una cosa ha preso immediatamente, a noi che siamo profani assolutamente del pezzo, ha preso immediatamente. Urge invitare Maurizio in uno dei vostri DJ set. Maurizio, ci sono tante belle ragazze, c'è tanta divertimento, c'è tanto movimento. Sì. Io ho una certa età in ogni caso. Ma va, che sei giovanissimo ancora. Sì. Sì. Sì. Cavolo. No, vabbè. Ma è importante una cosa fondamentale, il DJ set lo fate dal vivo con la band, quello è importante, bisogna sottolineare queste cose. Sì, è una cosa molto bella, diciamo che gli arrangiamenti vanno un po' rivisti ovviamente, sì, perché non è ovviamente... Ci sono le chitarre, no? Ci sono le chitarre, ci sono il basso vero, c'è tutto, quindi un po' rivisto. Ma fondamentalmente è quello che fanno gli americani, no? Sì. Perché se tu prendi un disco americano... Suona elettronica, suona finto. Parlavi di Rihanna prima, sì, purtroppo. Lei, no? Purtroppo è stesso. Sì, sì, parlavi di Rihanna. Se tu ascolti il suo disco è molto finto, poi... Esatto, è molto finto. Certo, però dopo... strumenti finti, però in live si ripropone dal vivo con una band. Un'altra cosa. Ma lo fanno tutti, in America lo fanno così anche i rapper. Mm. Cioè, se vai a prendere veramente... i live di B.O.B., di Jay-Z, di tutti quei rapper, grossi rapper che sono in classifica adesso. Cioè, lì hanno il batterista, il bassista, il chitarrista. È qui in Italia che ancora non c'è, diciamo, questa mentalità. A proposito di rapper, scusami Flavio, però io ho sentito un momento di rap, sì, anche nel vostro pezzo. Sì, Come cantavi te, in un momento, in un istante, qualche secondo ti sei fermato e proprio hai giocato col rap. Ci sarà molto rap nel nostro nuovo bene, CD. Bene. Tantissimo. Quindi un mondo molto, molto diverso. Sì. Variegato, possiamo dire questo. Esatto, con varie influenze appunto anche musicali e artistiche. Certo, a proposito di influenza, salutiamo tutti quelli che sono a casa con l'influenza. Noi ci siamo appena passati, noi ci siamo fatti Sanremo con l'influenza, ecco. Quindi meglio di così non si può andare, no? Quindi, capita assolutamente, sempre nei momenti giusti. Assolutamente sì, e anche nei momenti sbagliati alcune volte. Quindi allora Sismica sono venuti qui in radio, graditissimo ritorno come si ricordava prima, per farci ascoltare ancora la loro musica. Siamo partiti da lontano e siamo andati anche a ripercorrere qualche tappa di Credi nel tuo Dio, un CD che è ancora disponibile. Vogliamo dire anche quelle che possono essere le prossime vostre tappe dei tour qui in zona? Sì, allora Andrea, se te le ricordi, sì, qualcosa, se non le dice sì. Davide, adesso saremo imminente, so che sabato siamo a San Pietro di Stra. Esatto. Comunque nei nostri siti www.sismica.net o Facebook Sismica Andrea Davide, lì trovate le date che aggiorniamo mese per mese. Ecco, poi saremo a Roma il 18, poi mi sembra Vicenza la tappa successiva. Ecco, però comunque... sul sito ci sono tutte le date. È facile comunque il sito da ricordare, no? www.sismica.net. Lo dico un'altra volta così. No, dillo, perché no, è giusto, no, che va sia. Bene così. Bene, allora adesso noi abbiamo sempre parlato di musica disco, finalmente ascoltiamo la musica disco, quella classica tradizionale, cantata anche in inglese. Per fatta in versione acustica però. Fatta in versione acustica, assolutamente acustica, che ha sempre quella famosa parvenza di musica da discoteca, però eventualmente ci faccio io un... si può stare, una cassa. Vabbè, allora ancora invitiamo Andrea e Davide ad andare nella loro postazione che è super accessoriata anche in questa serata. Ringraziamo anche Giuliano che segue alla parte, diciamo, di mixer tutta la preparazione dei Sismica. E allora adesso andiamo con un pezzo che ci presentano i Sismica, si intitola Don't Worry Child, eccolo qua all'interno della programmazione acustica serale di Blu Radio Veneto chiamata Blu Time Live. But I hit it across the blue lake. That's where I had my first heartbreak. I still remember how we all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. For you, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah, there was a time I met a girl of a different kind. Loser outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs remind me of a friend. I bought a hill across the blue lake. That's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. For you, don't you worry now. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Don't Worry Child. Yeah. Abbiamo ascoltato questa bella canzone che è una cover liberamente interpretata dai Sismica. Vogliamo citare anche l'autore di queste. Questa è una grande collaborazione che sono Swedish House Mafia, sono tre DJ che compongono musica però. Okay. Pongono la musica. Pongono. È molto bella, veramente, i loro dischi suonano molto bene. Insieme a un bravissimo cantante, secondo noi veramente, che è John Martin. È veramente... Andatelo ad ascoltare se non lo conoscete, perché sono svedesi. Sia loro che lui. Ne vale la pena. Vale la pena, lui ha una voce bellissima, tra l'altro. Secondo me poi l'avete fatto come una un pezzo da FM americana. Sì, vero? Assolutamente, secondo me sì. Certo, ma poi questo brano, tra l'altro, che è scritto da John Martin, lui comunque è nella disco music, però viene dal mondo acustico. Appunto. Cioè, lui questo brano l'ha scritto chitarra voce, capito? Come l'ha fatto dal vivo questo pezzo? Qua abbiamo fatto chitarra dal vivo, suona dal vivo, suona molto più elettronico. Molto più elettronico. Sì, ovviamente. Certo. Un po'... Sì, è totalmente sempre diverso. Sull'onda nuova. Certo. Sì, però posso dire una cosa? Ti piace così? Ah, beh sì, molto. Ma il brano, quando il brano suona con la chitarra acustica, vuol dire che... Che c'è. C'è, il brano c'è. Perché il brano suona chitarra, voce... dobbiamo ricordare, cari ascoltatori, che è difficile suonare un brano con la chitarra acustica da... un brano elettrico pieno di strumenti, riprenderlo in versione acustica, Flavio mi insegna, è molto difficile. Certo. Assolutamente sì, è molto, molto difficile, però dei bravi musicisti ci riescono. Troppo buoni, a tradurre. No, ho notato anche dei grandi, come dire, miglioramenti da quelle che sono delle, come dire, dalle basi, da qualche tempo a questa parte, ma... assolutamente. Non che foste da meno prima, guarda, ma adesso, se prima c'era il più, adesso... Noi siamo contentissimi. E, veramente, noi non usciamo mai da quest'ottica di voler imparare sempre e sempre di più. Cioè, noi ogni giorno studiamo, ci informiamo, ascoltiamo, perché fondamentalmente crediamo che non sia mai finito di imparare, ma per fortuna è così. Certo che sì. Cioè, certo c'è veramente sempre cose nuove da scoprire, e spero che sia sempre così, perché quando uno ha finito di voler imparare, perché poi bisogna volerlo, secondo me non ha più niente da dire. L'uomo in nero Johnny Cash continuava a imparare fino alla fine della sua carriera. Bisogna. Ha continuato, ha ripreso i pezzi di Bono, di altra gente, rimodellandoli, imparando, costruendo. E se lo fanno questi artisti qua, ha fatto Johnny Cash, devono farlo tutti. Lume tutelare, bisogna sempre andare avanti, non bisogna mai fermarsi. E secondo me fate bene a questa. Tu pensa, dimmi. Tornando al discorso di Umberto Bindi. Sì, l'aneddoto che avevi detto. Ah, che sì, l'aneddoto, adesso ci colleghiamo con l'aneddoto. Ecco, ma tu pensa a proposito di imparare e di studiare, di ascoltare Umberto Bindi, questa è una cosa inedita. Ascoltava 8 ore di musica classica al giorno. Perciò, insomma, c'è veramente un mondo infinito da studiare. L'aneddoto, vero, bisognava dire, sì, quello di Londra, un po' particolare. Che ci eravamo staccati Londra, prima da Londra. Sempre Londra. Allora, Umberto Bindi fu convocato negli anni 60 da discografici dei Beatles, appunto a Londra, perché appunto avevano sentito questo brano scritto dal maestro, primo in classifica ovunque. Loro si sono infatti un po' qualche domanda e l'hanno convocato per firmare un contratto con loro. Cosa che non andò a buon fine, perché lui, da artista sopra le righe, sopra le nuvole, si presentò dei discografici dei Beatles 40 minuti in ritardo. Cosa che non capisco. Cosa normalissima. Perciò, per insomma, sì, la cosa non andò a buon fine. Però, ecco. Anche i Beatles arrivarono dai discografici della Decca e preferirono i Tremelos, perché secondo loro i Tremelos erano più bravi dei Beatles. Erano più bravi. Esattamente. Cosa invece... poi capita? Capita nella succede. Vita. Ma anche bufala assoluta. Ma anche Ringo Starr si è guadagnato il posto perché l'altro è arrivato in ritardo, no? Sì, c'era una cosa simile, poi anche dobbiamo sottolineare che Ringo Starr aveva un modo di suonare molto meno esuberante rispetto a Pete Best. Beatles o Rolling Stones? Secondo me Rolling Beatles è un'ottima congiura. È difficile. Cattivo e il buono, come una volta si diceva, non era vero, no. Erano buoni tutti e due, erano sì, bravi, sì, tutti e sì, due, sì. Però musicalmente doveva essere uno cattivo e uno buono. Però... sì, uno c'era, l'altro si faceva, come si diceva, no? Allora, nel senso più largo del termine. Allora, abbiamo come dire, saltato un po' di vostra storia, perché nel 2008 c'era stato anche un singolo, non l'abbiamo mai ricordato, un doppio singolo, quindi due brani, c'era Scusa e Erotica. Autoprodotto, yes. Sì, questa è proprio la nostra partenza, diciamo, discografica. Sì, un brano che comunque è servito moltissimo, ci ha dato molte soddisfazioni, abbiamo tra l'altro vinto anche un premio a Il Cantagiro, concorso che ricorderete sicuramente, concorso storico, sì, che compie, sì, mi sembra 60 anni, mi sembra, sì, quest'anno. Sì. Sì. Siamo stati tra l'altro ospiti alla finalissima lo scorso 15 dicembre al Teatro di Fiuggi, a Roma. E, E poi avete vinto anche Vota le voci. Sì, esatto, la tappa di Albignasego, sì. Quindi insomma è stata... Avete fatto il vostro percorso. Sì, abbiamo dei bei ricordi legati anche a quella canzone. Certo, certo. Com'è che faceva così? Scusa? Scusa, come faceva? Mamma mia, le parole. Lascia che sia un fiore. Eccola, lascia ecco. Che sia. Quella, la scusa era proprio una ballata, no? Sì, sì, no. Invece erotica era più sul folk. Dance folk. Sì, c'era già la vena. C'era no? Già la vena del dance. Già all'epoca. Sì, nel 2008. Però... Qualche pezzettino, qualche flash. Qualcosa c'era. Sì, C4, esatto, Charlie Levar. Sì, è quello là. Esatto, questo singolo è uscito nel 2008 che dopo ci è servito per scrivere gli altri sì. Il resto dei brani, la continuazione praticamente, credimi. Perché poi è veramente una catena, no? Certo. Più scrivi, più continui a migliorare, più avanti. Quando trovate il tempo per scrivere, visto che suonate in continuazione? Guarda, ti devo dire la verità, adesso di questo ultimo album che stiamo scrivendo mancano 2, massimo 3 pezzi e l'abbiamo concluso. È stato scritto quasi tutto Tra l'inizio di novembre e questi giorni. Questi giorni. Sì. È stato veramente una cosa molto flash, immediata. Non c'era mai successo così di botto. È vero che ancora vi svegliate di notte e vi chiamate l'un con l'altro dicendo senti questa? Sì, certo. Succede spesso. Sì, sì, sì. O ci svegliamo a vicenda. Ci sono i fratelli che magari si raccontano le barzellette, invece voi vi passate i testi per gli accordi. Noi diciamo che da l'esperienza di vita e poi appunto da questi tour lunghi, anche siamo stati in tour con MSC Crociere lo scorso ottobre, e abbiamo preso molti spunti, conosciuto persone nuove, paesaggi diversi e ci ha dato tantissimi stimoli anche per scrivere queste nuove canzoni. Sì, avete voluto conoscere il comandante prima di partire. Sì. Perché adesso tutti fanno così. Ci siamo fidati. Sì, sì. Siete stati in Tunisia, mi avete detto. Sì, sì, sì, in Tunisia. Abbiamo fatto 2 tour, tra l'altro, con MSC Crociere. Questo ottobre e anche l'ottobre 2011, proprio la settimana dopo essere venuti qui a trovarvi. Ah, benissimo. Perché che avevate già i bagagli in macchina. Già pronti. Esatto. Pronti. In partenza. Benissimo. Sono delle belle esperienze. Allora, dateci una data indicativa di uscita. La vostra uscita. Beh, intanto, dopo Movida, che adesso sentiremo, ci sarà il singolo nuovo per l'estate, sicuramente. Io spero il prima possibile. Entro quest'anno. Sei un po' vago. Disco nuovo, Bene. Ma le canzoni ci sono, bisogna registrarle, trovare il tempo. C'è tanto lavoro, non è facile fare un disco. Però speriamo quest'anno, dai, quest'anno ce la facciamo. Benissimo, allora vi aspettiamo, prenotiamo già la serata per il prossimo disco da presentare qui in radio. E allora parliamo di questa movida, che è un termine assolutamente internazionale, legato comunque alla musica dance propria della movida spagnola, no? Quello che succede dopo una certa ora in Spagna, dopo la comida c'è la movida. La movida. No? Quindi, allora, una movida però cantata in inglese in questo caso. No, in italiano. In italiano? Ecco, vedi, sì, che sì. Mi avete fregato. Che dire, una canzone, siamo contenti, ci dando le belle soddisfazioni di questo brano. Tra l'altro c'è molto riscontro da parte all'estero. Lo stanno passando già delle radio del Sud America. Bene. Anche New York. Anche di New York. Quindi insomma è bello sentire Fa parte del cambiamento, e questo è il cambiamento. Sì, assolutamente, sì. Una chiave molto più internazionale. Per questo anche nell'album, non per decisione, presa a tavolino, è stata una cosa, un'esigenza sentita. Ma avete deciso voi o deciso il produttore? No, abbiamo deciso noi. Il produttore cosa ha detto? Okay. Ha approvato. Sicuro? Sì. Ha approvato. Diciamo che appunto è stato... stiamo scrivendo anche dei pezzi in spagnolo e in inglese per dare un'internazionalità ancora maggiore a questo genere, questo nostro lavoro, sì. Bene. Anche perché molte volte gli artisti italiani sono più conosciuti all'estero che non in Italia. Questo proprio perché all'estero, nostro malgrado, è male dirlo, però ascoltano di più la musica e l'ascoltano anche se l'artista gli risulta sconosciuto. Sono proprio curiosi di vederlo. Invece qua c'è bisogno di qualche spinta commerciale in più per riuscire ad essere visibili. Sì, sono dei mondi completamente diversi, poi ogni paese c'ha la sua, voglio dire. In una televisione del Sud America, per esempio, siamo passati dopo di Rihanna, con un video, quindi c'è, sì, per loro, Arianna, quella gente, cioè, nel senso, per loro la concezione musicale è parecchio diversa. Hanno molto, sì. Sono molto più aperti. Però ci piace anche l'Italia, ci piace, insomma, stare qui in Italia, che... nel nostro paese. Ci piace uscire, ci piace entrare, andare, venire. Bene. Insomma, il mondo è bello, è vario, è bello esplorarlo tutto. Certo. Quindi il passaporto sempre bello pulito, sempre, sì, in, sì, ordine. Sì. Va bene, per continuare a proporre la vostra musica nel mondo. E allora, noi, Maurizio, ringraziamo i Sismica. Grazie ancora per essere tornati da noi con la vostra musica. Abbiamo strappato l'appuntamento anche per la data che verrà per il nuovo lavoro che state facendo, che state ancora pensando, componendo. Intanto ci siamo ascoltati pezzi da Credi nel tuo Dio, pezzi che fanno parte anche di altre compilation. Abbiamo ascoltato un'anticipazione del vostro nuovo lavoro e adesso, perché non ascoltarci Movida, l'abbiamo commentato. Prima di ascoltare Movida, comunque, noi vi salutiamo. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, è un piacere. Salutiamo tutti gli ascoltatori, vi ringraziamo Blu Radio Veneto. Grazie mille. Grazie ancora ai Movida. Salutiamo anche Giuliano, che ha curato la parte tecnica, la parte audio. E quindi non ci resta che salutarci. Ah, salutiamo anche Gil Facchinelli, che ascolteremo più tardi anche con l'intervista telefonica a Daniele Zenka. Non mancate quindi l'appuntamento prossimissimo con Rock Wave, l'onda del rock. Salutiamo e quindi, anche il nostro produttore artistico, cioè produttore, il nostro direttore di tutti i live. Sì, Alberto, salutiamo Prisco. Alberto Prisco. Benissimo, allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Galzavara è davvero tutto, quindi buon proseguimento delle trasmissioni con Blu Radio Veneto. E signore e signori, questa è Movida, loro sono i Sismica. Grazie ancora, ragazzi. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Qui dove nascono i sogni, qui la tua vita ripartirà senza obblighi e realtà. Dove la notte ci porterà oltre ogni logica. Se mi cercherai, mi troverai qui. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time.